Capitolo 55. Le Empuse. I sozzi demoni chiamati Empuse, figlie di Ecate, hanno natiche d'asino e calzano pianelle di bronzo, a meno che, come taluni vogliono, esse abbiano una gamba di asino e una gamba di bronzo. È loro costume terrorizzare i viandanti, ma si può scacciarle prorompendo in insulti, poiché all'udirli esse fuggono con alte strida. Le empuse assumono l'aspetto di cagne, di vacche o di belle fanciulle e, in quest'ultima forma, si giacciono con gli uomini la notte o durante la siesta pomeridiana e succhiano le loro forze vitali, portandoli alla morte. Le empuse, coloro che si introducono a forza, erano demoni femminili smaniosi di sedurre gli uomini, una concezione probabilmente giunta in Grecia dalla Palestina, dove tali demoni portavano il nome di Lilim, figlie di Lilith, e venivano raffigurate con le natiche d'asino, poiché l'asino simboleggiava la crudeltà e la lussuria. Lilith, civetta, era l'Ecate cananea e gli ebrei fino al Medioevo portarono amuleti per proteggersi dai suoi attacchi. Ecate, la vera padrona del Tartaro, calzava un sandalo di bronzo. I sandali d'oro erano prerogativa di Afrodite e le sue figlie, le Empuse, ne seguirono l'esempio. Si potevano trasformare in cagne, in vacche o in belle fanciulle, poiché la cagna Ecate, essendo uno dei membri della triade lunare, si identificava con Afrodite e con Era dagli occhi bovini.